ma anzi chiesero dei prestiti che furono accordati, ma furono concessi anche prestiti ben più consistenti al governo di Thiers. Anche le altre città come Marsiglia, Lione, Limoges, Vierzon, Nevers, Cosne, Saint-Étienne, Narbonne, Tolosa e Bordeaux fu costituita una comune. A Lione la Guardia Nazionale occupò l'Hôtel de Ville, scacciando il consiglio comunale e arrestando il prefetto, ma poi fu incapace di prendere le misure necessarie a proseguire la rivoluzione ed in breve i comunardi si ritirarono. A fine aprile ci fu a Lione un'altra insurrezione, ma dopo 5 ore di combattimenti venne brutalmente repressa. Marsiglia insorse il 22 marzo, appoggiando la Comune di Parigi. La folla, insieme alla Guardia Nazionale, occupò la prefettura, arrestò il prefetto e i suoi dipendenti. Poi fu insediata una commissione dipartimentale composta da 3 delegati del Consiglio Municipale, 3 delle società repubblicane e della Guardia Nazionale. Poi vennero convocate le elezioni per eleggere la Comune il 5 aprile. Ma il giorno prima Marsiglia fu attaccata e bombardata da un'armata fedele a Thiers. Furono innalzate le barricate. La battaglia durò 7 ore, ma alla fine i governativi ebbero la meglio. Ci furono molti morti e moltissimi prigionieri. Avvenimenti e conclusioni simili si ebbero nelle altre città. A Narbonne degli ufficiali condannarono a morte 19 soldati che si erano rifiutati di sparare sulla folla. Tutti questi tentativi fallirono perché avvennero in maniera isolata gli uni dagli altri, dando modo alle forze reazionarie di organizzarsi ed attaccare vincendo una ad una le sommosse. Un grosso errore fu sicuramente quello della mancanza di coordinamento delle azioni insurrezionali fra la Comune di Parigi e le altre città. Furono fatti dei tentativi di convocazione di un congresso che raccogliesse i delegati delle comuni, ma senza successo. Ci furono anche manifestazioni di solidarietà alla Comune in diverse città, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, in Italia, in Belgio, in Svizzera ed in America. Il 21 marzo Thiers, mentre non aveva ancora un esercito, dichiarò all'Assemblea Nazionale: «Qualunque cosa avvenga, non manderò un esercito a Parigi». Il 22 marzo a Parigi una manifestazione si mosse dai quartieri eleganti. Col pretesto di una dimostrazione pacifica, i ricchi borghesi di Parigi, armati lungo il loro percorso, maltrattarono e disarmarono le pattuglie isolate e le sentinelle della Guardia Nazionale, uccidendo 2 guardie nazionali e ferendone altre 9, tra cui un membro del Comitato Centrale. E alla fine tentò di rompere i cordoni della Guardia Nazionale in piazza Vendôme, ma furono messi in fuga, lasciando sul terreno le loro rivoltelle e i loro pugnali. Ed ora ascoltiamoci la Comune di Parigi di Stefano Guarfaglini. Sangue scorrerà di bambini e donne che questa notte inghiotte già sui bastioni di Parigi. Già si armano i fucili per difendere la comune dalle armate di Thiers. Tradimento dalla porta di Saint-Cloud, hanno ucciso e fatto strazio degli inermi a Saint-Lazare, son salite a conquistare la collina di Montmartre, si resiste ormai soltanto dalla parte di Belleville. La commune, voilà les remèdes. la la salut, la commune, la commune, voilà les remèdes, voilà les saluts. Combattendo, ma l'idea resterà. I dannati della terra son la nuova umanità. I tamburi stan rullando sulla via di Ramponò. Le bandiere insanguinate son la nostra libertà. Ci hanno dato dei briganti, i padroni di Versailles, perché contro il loro mondo abbiamo scelto di lottare. Moriremo a cento e a mille, ma nessuno ci fermerà. Nel riscatto di ogni popolo la comune rivivrà. La commune, voilà les remèdes, voilà les saluts. La commune, voilà les remèdes, voilà les saluts. Secondo il Comitato Centrale di Parigi, una volta costituite a Parigi e in ogni città francese le comuni, il vecchio governo centralizzato avrebbe dovuto cedere il posto anche nelle province all'autogoverno dei produttori. Le comuni rurali di ogni distretto avrebbero dovuto amministrare i loro affari comuni mediante un'assemblea di delegati con sede nel capoluogo e queste assemblee distrettuali avrebbero dovuto a loro volta mandare dei rappresentanti alla delegazione nazionale a Parigi. Ogni delegato doveva essere revocabile in qualsiasi momento e legato al mandato imperativo e ad istruzioni formali dei suoi elettori. Il 25 marzo la Comune decise di riaprire i musei, rimasti chiusi durante l'assedio. Il pittore Gustave Courbet fu eletto in un'assemblea presidente della Federazione degli Artisti di Parigi. La Comune si impegnò a favorire la libera espansione dell'arte e a garantirne l'insegnamento. Benoît Malon, nel suo libro La Comune di Parigi, scriveva: «Nei quartieri occupati dai federati si circolava liberamente e regnava l'allegria. Né si dimenticava la fraternità dei popoli. Al suono della Marsigliese e all'agitarsi delle bandiere rosse si udiva il grido di «Viva la Repubblica Universale!». Nei quartieri borghesi invece si arrestavano tutti quelli che avevano l'aria di abitanti dei sobborghi. In tre giorni si arrestarono almeno 600 persone». Il 26 marzo a Parigi ci furono le elezioni per eleggere il Consiglio Municipale. Votò circa il 50% degli aventi diritto, ma questo perché Parigi si era svuotata ed i quartieri dei ricchi borghesi erano ormai vuoti. Vinsero socialisti e anarchici. I pochi eletti nei quartieri borghesi si dimisero e il Consiglio Municipale decise di adottare ufficialmente il nome di Comune di Parigi. I membri della Comune si dividevano in una maggioranza di blanchisti, i quali avevano predominato anche nel Comitato Centrale della Guardia Nazionale, e in una minoranza composta di membri della Prima Internazionale in prevalenza della scuola socialista di Proudhon. Il più importante tra i decreti emanati dalla Comune, ordinava una riorganizzazione della grande industria e della manifattura, la quale non doveva fondarsi soltanto sull'associazione degli operai in ogni fabbrica, ma doveva anche riunire tutte queste associazioni in una grande federazione, un'organizzazione, quindi, come poi disse Marx nel suo libro sulla Comune di Parigi dal titolo La guerra civile in Francia, doveva alla fine condurre al comunismo. Il 28 marzo il Comitato Centrale della Guardia Nazionale cedette i pieni poteri alla Comune, che decretò l'adozione della bandiera rossa al posto del tricolore come propria bandiera e fu fatta una grande cerimonia di insediamento della Comune davanti all'Hôtel de Ville, con parata della Guardia Nazionale in divisa, salve di cannone e con la folla che applaudiva. Il problema degli alloggi era certamente uno dei più importanti per una città che aveva subito un lungo assedio. Il 30 marzo venne decretato che per 9 mesi, dall'ottobre 1870 al giugno del 1871, gli affitti non erano dovuti. Non si trattò di un semplice rinvio dei pagamenti, ma di una esenzione. Fu dichiarato: è giusto che anche la proprietà sopporti la sua parte di sacrifici. Fu decretato anche il rinnovo del blocco degli sfratti. Il 25 aprile furono requisiti gli alloggi sfitti in favore degli abitanti vittime dei bombardamenti. Fu decretata anche la gratuità dei libri e quaderni scolastici. Inoltre fu deciso che nessun funzionario della Comune potrà avere uno stipendio superiore a quello di un operaio. Venne anche abolita la pena di morte e la ghigliottina venne bruciata in piazza. Un decreto stabilì che tutti gli stranieri residenti a Parigi erano considerati uguali agli altri cittadini e potevano essere eletti alle cariche degli organi della Comune. Nel conflitto tra governo di Versailles e Comune, naturalmente la Chiesa Cattolica si schierò subito a fianco dei primi, quindi furono prese anche misure contro la Chiesa. I parroci definirono ciò che stava accadendo a Parigi come il grido di Satana. In risposta, la Comune decretò la separazione tra Stato e Chiesa, la confisca dei beni ecclesiastici e l'8 aprile fu deciso di bandire dalle scuole tutti i simboli religiosi, crocifissi, immagini, dogmi e preghiere. Il Consiglio della Comune dichiarò: la libertà è il principio basilare della Repubblica francese e la libertà di coscienza è la prima delle libertà. Il clero è stato complice dei crimini della monarchia contro la libertà. La Comune assegnò tutti gli impieghi amministrativi, giudiziari, educativi per elezione a suffragio universale degli interessati e con diritto costante di revoca da parte di questi. Inoltre, per tutti i servizi pagò uno stipendio uguale a quello degli operai. Thiers e il suo governo a Versailles, nel frattempo, stava segretamente riorganizzando l'esercito. Alla fine di marzo Thiers aveva raccolto 65.000 uomini, ben più dei 40.000 che le condizioni d'armistizio gli avrebbero consentito. Thiers mise assieme in gran fretta un'armata eterogenea di marinai, fucilieri di marina, zuavi pontifici, gendarmi, eccetera. In una lettera a un amico, Thiers affermò che stava riorganizzando l'esercito sperando che in 2 o 3 settimane avrebbe avuto soldati sufficienti per liberare Parigi. Però 65.000 uomini non bastavano. Trovò però la pronta collaborazione di Bismarck, che l'8 aprile concesse il rimpatrio dei prigionieri di guerra, portando così gli effettivi francesi a ben 170.000 uomini, a condizione che fossero impiegati esclusivamente contro gli insorti di Parigi, mentre le sue truppe avrebbero mantenuto il controllo dei forti della cinta difensiva nord-orientale della capitale. Agli arruolati nell'esercito di Versailles vennero promessi ingaggi per 2 anni e promozioni. Inoltre erano ben nutriti, fuorviati dalle calunnie. Gli fu fatto anche credere che avrebbero potuto cancellare l'onta delle loro sconfitte massacrando gli operai della Comune. Bismarck era ben felice che fossero i francesi a combattere i rivoluzionari di Parigi. Dalla parte della comune c'erano circa 200.000 combattenti, ma poco addestrati e senza la disciplina dei militari di professione. Avevano anche molti cannoni, ma come venne detto alla seduta della comune del 6 maggio, manca una buona organizzazione. Ascoltiamoci ora alla Comune di Parigi, parole e musica di Fabrizio Cozzani, voce e arrangiamenti di Gianluigi Ago. E sulle barricate, e sulle barricate della Comune di Parigi c'è una bandiera rossa che sventola nel vento in mezzo ai morti ed ai feriti. L'esercito francese nel sangue vuol stroncare il tentativo appena nato di molti proletari, di esser liberi ed uguali. Ed i bambini combattono sulle barricate e curano i feriti e cuciono i vestiti per la comune e i rivoltosi. È il primo tentativo del genere in Europa, quindi nel sangue va stroncato, sarà stroncato infine da forze soverchianti e l'ordine ritornerà. Queste nuove idee disperse non saranno, no, non saranno dimenticate. No, queste nuove idee disperse non saranno, non saranno mai dimenticate. Thiers non trascurò nemmeno l'arma della corruzione e del tradimento. Cercò di corrompere il comandante comunardo Dombrowski. Suoi uomini si fecero passare per comunardi come Barral de Montaut, che ottenne il comando di una legione, come Beaufond e Ducatel, che aprirono le porte di Parigi all'esercito di Thiers, come tante altre anonime spie e sabotatori, quali quelli che il 17 maggio fecero saltare in aria la fabbrica di munizioni RAP. Il 2 aprile i soldati del governo, che ormai tutti chiamavano i Versagliesi, visto che il governo stava a Versailles, attaccarono e presero i primi avamposti. In risposta, il 3 aprile i parigini tentarono un contrattacco e provarono a marciare su Versailles, ma vennero sconfitti. Uno dei generali che comandavano il contrattacco venne ucciso in combattimento, mentre l'altro, un operaio fonditore di nome Duval, venne fucilato. La comune lo aveva nominato generale quel giorno stesso. Tutti i prigionieri che in passato erano stati soldati e che si erano uniti alla Guardia Nazionale vennero fucilati. Per reazione, il Consiglio della Comune votò il 5 aprile il cosiddetto decreto degli ostaggi, che prevedeva che chiunque fosse sospettato di complicità con il governo di Versailles sarebbe stato immediatamente accusato e imprigionato, e che qualunque esecuzione di un prigioniero di guerra o di un sostenitore della Comune di Parigi sarebbe stata eseguita immediatamente dall'esecuzione di un numero triplo di ostaggi. Thiers fece allora sospendere le esecuzioni. Il 5 aprile il Comitato Centrale della Guardia Nazionale pubblica un proclama in cui possiamo leggere: «Se siete stanchi di vegetare nell'ignoranza e di abbrutirvi nella miseria, se volete che i vostri figli siano degli uomini ritraenti il beneficio del loro lavoro e non una specie quasi d'animali addomesticati per l'officina e per la guerra, fecondanti coi loro sudori la fortuna di un padrone e spargenti il loro sangue per un despota. Se non volete che le vostre figlie, che non potete allevare e sorvegliare da voi stessi, siano strumenti di piacere per l'aristocrazia del denaro, se non volete che la miseria spinga gli uomini nella polizia e le donne nella prostituzione, se voi volete infine il regno della giustizia o lavoratori, siate intelligenti, alzatevi e le vostre forti mani abbattano la immonda reazione». Il 12 aprile la Comune decise di abbattere la colonna della Vittoria in piazza Vendôme, fusa dopo la guerra del 1809 coi cannoni presi da Napoleone, in quanto simbolo dello sciovinismo e dell'istigazione all'odio fra i popoli. La colonna fu effettivamente abbattuta il 16 maggio, fra gli applausi della folla, e il nome della piazza da Vendôme fu cambiato in Piazza Internazionale. Il 27 aprile un decreto stabilì la soppressione delle multe sui salari operai e impose la restituzione di quelle inflitte dopo il 18 marzo. E venne stabilito anche la soppressione del lavoro notturno nelle panetterie. Ma a seguito della resistenza dei proprietari dei forni, l'entrata in vigore del decreto fu spostata al 3 maggio, confiscando i prodotti di quelle panetterie che continuavano a ignorare il provvedimento. Durante la Comune non ci furono rapine né scassi notturni e sparirono quasi del tutto i furti. Le vie di Parigi erano diventate sicure e senza nessun servizio di polizia. Le forze governative e la Comune di Parigi continuarono a scontrarsi per circa un mese e mezzo. Parigi fu bombardata senza interruzione da coloro che ne avevano stigmatizzato il bombardamento da parte dei prussiani come una profanazione di cosa sacra. I prussiani, che occupavano i forti settentrionali orientali, permisero ai versagliesi di avanzare attraverso il territorio loro vietato dall'armistizio, a nord della città, e quindi permisero di poter attaccare su un lungo fronte che i comunardi credevano protetto dall'armistizio e che perciò avevano occupato solo debolmente. La resistenza nella metà occidentale di Parigi, cioè nella città del lusso, diventò più violenta e più tenace quanto più le truppe avanzanti si avvicinavano alla metà orientale, alla città operaia. Il 12 maggio venne inaugurata la prima scuola professionale femminile di arte industriale, mentre la scrittrice Marguerite Tinayre venne nominata ispettrice generale delle scuole parigine. Altre iniziative prese dalla Comune che riguardavano direttamente o indirettamente le donne furono la proibizione dell'esercizio della prostituzione, l'organizzazione degli asili, l'abolizione, decretata il 17 maggio, della distinzione fra figli legittimi e illegittimi, la concessione di una indennità alle mogli delle guardie nazionali. Le comunarde furono molto impegnate nelle lotte per le conquiste sociali e per l'emancipazione femminile. Esse rivendicavano la piena uguaglianza dei sessi e scrivevano: «Qualsiasi disuguaglianza e qualsiasi antagonismo tra i sessi costituisce una delle basi del potere delle classi dominanti. Uguaglianza dei salari, diritto al divorzio per le donne, diritto all'istruzione laica ed alla formazione professionale per le ragazze». I soldati del governo Thiers arrivarono alla fine nel centro di Parigi ed iniziò quella che fu chiamata la Settimana di Sangue. Ai soldati del governo venne detto che a Parigi c'era la feccia, i comunisti che vogliono portar via le loro case e le loro donne. Tra i difensori della Comune c'erano anche molte donne che sparavano dalle barricate. Negli ultimi combattimenti a Belleville, un testimone inglese raccontò di aver visto un gruppo di donne armate che hanno difeso una barricata e che dopo essere state catturate vennero messe al muro e 52 furono fucilate. Ed ora ascoltiamoci la comunarda di Marco Rovelli. Degli amori, il tempo a Rouge Noir confonde voci, e l'alba con la sera un bandolier, i canti comunardi scavano miniere, erigono palazzi su boulevard della collina, e coi ragazzi in cima ad alzare un drappo nero, sul passato espirato con le con, si fermino allora gli orologi. Oggi inizia un tempo nuovo in questa festa, e viva ciò che resta, si fermino allora gli orologi. Oggi inizia un tempo nuovo in questa festa, e viva ciò che resta. Abracadabrantes, scrive il poeta, sul selciato in fiamme di Parigi, in questa evidente primavera. Baciami Juliette se si fa sera, resta Ménilmontant, resisti ai tuoni e ai lampi dei cannoni. E le baionette come un muro su Montmartre, Juliette cantami ancora il canto comunale. Il tuo nome è segnato al dito sul vetro, forse è questo Dio e al mio soffio si schiude. È un volto che ride, un rigo di luce, io rido al tuo riso che mi dice sì. Gira per le piazze, all'hotel de Ville in fiamme, appare agli orologi a Saint-Lazare. La ghigliottina brucia sotto gli occhi di Voltaire, mentre canta Louis Michel, mai più carne all'uomo e schiavi ai re. Juliette, tu sei la rosa come il pane, libertà di maggio, antica sposa floreale, alle Juliette. Versami da bere con ron di botte scura, perché su queste mura si vive o si muore, ma senza più paura. Il tuo nome è segnato a dito sul vetro, forse è questo Dio e al mio soffio si schiude. È un volto che ride, un rigo di luce, io rido al tuo riso che mi dice sì. Ton nom est signé, tu dois sur la vitre. Je vois ça, ça vient, il se pleure en souffle. Un visage qui rit, une lumière qui s'ouvre. Moi je ris à ton rire, qui me dit oui. questo addio e al mio soffio si schiude da un volto che ride, un rigo di luce. Io rido al tuo riso che mi dice sì, ton nome si niente tu ha sulla vita, tu vuoi se ti è il secolo a un souffle, un visage qui rit, une lumière qui s'ouvre, moi je ris à ton rire. Liberi e stendardi come un cielo, suono dei liberi e rumore di corpi vivi, e tra i tamburi il soffio di mille respiri. Thiers scrisse a Bismarck il 21 maggio, che era in grado di ristabilire l'ordine sociale in una settimana. In effetti, nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, un traditore segnalò all'esercito di Versailles che la porta Saint-Claude era senza difesa. Fu organizzata la resistenza e furono erette barricate ovunque. Mancava però un centro di coordinamento della difesa, quindi ogni combattente difendeva il proprio quartiere disinteressandosi di quello che succedeva nei quartieri vicini. Il 23 maggio, dopo aver conquistato Montmartre, 49 comunardi, comprese donne e ragazzi, vennero prelevati a caso, fatti inginocchiare davanti al muro dove in precedenza erano stati fucilati i due generali governativi, Lecomte e Clément Thomas, e giustiziati. I soldati fucilarono anche i comunardi feriti negli ospedali e spesso anche i medici che li curavano. Vennero fatti anche migliaia di prigionieri che vennero avviati con le mani legate verso Versailles, con la cavalleria che li spingeva avanti a sciabolate e quando qualcuno si fermava o cadeva veniva ammazzato sul posto. All'uscita dei prigionieri da Parigi il generale de Galifet passò in rassegna i prigionieri e decise chi fucilare. Scelse quelli che avevano i capelli bianchi, pensando che questi avessero partecipato anche alla rivoluzione del 1848, quelli che avevano l'orologio, perché significava che non erano operai, erano studenti o erano i capi, e quindi erano i più pericolosi. A sera scoppiarono gli incendi che distrussero le Tuileries, la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze, il Consiglio di Stato ed altri palazzi e molte abitazioni. Nacque così la leggenda delle cosiddette petroliere, creata e alimentata dalla storiografia reazionaria, secondo la quale orde di donne vagabondavano a caso con un secchio di petrolio in mano per appiccare il fuoco. In realtà, fin dal tempo dell'assedio, il petrolio aveva sostituito a Parigi l'introvabile carbone e alle donne serviva per tutti gli usi domestici. Gli incendi furono pertanto provocati sia dai comunardi, per fare terra bruciata delle terre conquistate dal nemico, sia dalle artiglierie versagliesi che usavano granate incendiarie e obici a petrolio. Il 24 maggio, i versagliesi conquistarono il quartiere latino e si intensificarono le esecuzioni dei prigionieri. Per reazione quella sera la comune ordinò la fucilazione di 6 ostaggi nella prigione di La Roquette, tra i quali c'era l'arcivescovo. La comune aveva offerto ripetute volte di scambiare l'arcivescovo insieme a molti sacerdoti col solo Blanqui, allora prigioniero. Thiers rifiutò sempre, sapeva che l'arcivescovo gli sarebbe stato più utile da morto. Le fucilazioni di massa proseguirono a ritmo tale da dover richiedere l'impiego delle mitragliatrici e non risparmiarono nessuno, neanche i feriti. Nell'ambulatorio di Saint-Sulpice, i soldati di Thiers ne massacrarono 80, compreso il medico, il dottor Fano, che, benché fosse contrario alla comune, si sentì in dovere di curarli. Il 25 maggio un reparto della Guardia Nazionale fucila tutti i frati domenicani di un convento e i loro dipendenti. Il 26 la Guardia Nazionale fucila altri 51 ostaggi, 11 preti e frati e 40 poliziotti. Il 26 maggio la Comune controllava ancora soltanto i quartieri orientali. Il 27 maggio resistevano solo i quartieri operai di Belleville e Charon. Si combatteva ancora a cannonate al cimitero di Pierre Lachaise. Poi ci fu l'ultimo assalto all'Arma Bianca tra le tombe e centinaia di sopravvissuti furono fucilati contro le mura del cimitero, dove ancora oggi si celebra ogni anno la memoria della Comune. Belleville è in fiamme, colpita tutta la notte dai proiettili incendiari. Il 28 maggio finirono i combattimenti. Le truppe governative avevano completamente conquistato Parigi, ma le fucilazioni proseguirono in maniera arbitraria ancora per diversi giorni. In tutta la città i soldati perquisivano e rastrellavano. Continuarono anche gli arresti. I cadaveri vennero sepolti in fosse comuni o bruciati fuori città. Alla fine, tra morti in combattimento e fucilati, le perdite dei comunardi ammontarono a ben 37.000. Fu il più grande massacro perpetrato dalle forze reazionarie fino a quel momento. Innumerevoli furono le delazioni. Il 13 giugno si contavano già 389.823 denunce anonime, spesso derivanti solo da rancori personali. Molti cercarono di scappare, ma fuori da Parigi c'erano i prussiani, accampati lungo la parte nord-est di Parigi, che avevano l'ordine di non far passare nessun fuggiasco. Engels riportò le testimonianze di comunardi che raccontarono che i soldati tedeschi, quando potevano, lasciavano passare i fuggiaschi e anche qualche ufficiale prussiano chiuso un occhio. L'orrore di questa repressione colpì l'opinione pubblica mondiale, anche di coloro che non avevano la minima simpatia per la Comune. Persino il Times di Londra scrisse che la sete di sangue dei soldati di Versailles pare perfino superiore a quella dei comunisti. Victor Hugo offrì la sua casa di Bruxelles ai fuggiaschi, attirandosi l'odio dei reazionari e venne quindi espulso dal Belgio. La Prima Internazionale fu particolarmente presa di mira subito dopo i fatti della Comune. L'Assemblea Nazionale di Versailles decretò: qualunque associazione internazionale che sotto qualsivoglia denominazione, soprattutto quella di Associazione Internazionale dei Lavoratori, si proponga di provocare la sospensione del lavoro, l'abolizione del diritto di proprietà, della famiglia, della patria, della religione o del libero esercizio dei culti, costituisce per la sua esistenza e per le sue ramificazioni sul territorio francese un attentato alla pace pubblica. Gli arrestati furono 38.578, dei quali 1.054 donne e 615 minori di 16 anni. Per evitare epidemie furono smistati in parte a Versailles, in parte su grandi zattere galleggianti, in parte sulle isole atlantiche. Di loro 1.709 morirono durante la detenzione. La Comune di Parigi durò soltanto 72 giorni, ma lasciò un segno indelebile nella storia delle classi subalterne. Tra i personaggi che hanno vissuto l'esperienza della Comune di Parigi c'è una figura importante. È quella di Louise Michel. Fu lei che a Montmartre, il 18 marzo 1871, gridò ai soldati inviati dal governo di Thiers: «No, questi cannoni non li prendete!» Dando così inizio alla Comune di Parigi. Era un'anarchica prudoniana di sinistra e divenne una dirigente attiva della Comune. Nel 1870 Louise Michel aveva 40 anni, scrisse poi le sue memorie con il titolo La Comune. Nel dicembre 1870 fu arrestata per aver preso parte a una manifestazione di donne, ma venne rilasciata su raccomandazione di Victor Hugo. Già il 31 dicembre 1870 partecipò all'insurrezione fallita. A gennaio 1871 partecipò alla pianificazione dell'azione all'Hôtel de Ville. Il 21 gennaio era tra coloro che liberarono i detenuti politici dalla prigione di Mazas. Fece parte del comitato di vigilanza di Montmartre, dove viveva e dove si adoperò per non lasciare nessuno senza asilo e senza pane e dove era chiamata il terrore degli accaparratori. scrisse al sindaco durante la comune chiedendo riforme fondamentali, tra cui la soppressione delle case di prostituzione, l'utilizzo del vino e del carbone trovati nelle cantine delle case abbandonate per i bisogni dei malati e degli asili, la requisizione delle case abbandonate per destinarle ai cittadini. Combatté sparando con il fucile in prima linea sulle barricate durante la settimana di sangue. Secondo una sua stima, circa 2.000 donne combatterono sulle barricate durante la comune. Fu poi deportata nella Nuova Caledonia. Nel 1880 usufruì dell'amnistia. Ritornò a Parigi, dove riprese la sua attività politica. Fu nuovamente arrestata più volte. Morì a Marsiglia il 9 gennaio 1905. Louise Michel fu una delle figure centrali della Comune e attuò la teoria socialista libertaria, prudoniana e anarchica, con l'azione diretta, l'organizzazione dei comitati di vigilanza e la militanza sul campo di battaglia. Ascoltiamo la canzone delle donne della Comune di Parigi di Franca Rame. Sì, mi piaci te, mi piace l'amore con te, ma incinta non voglio restare. Oh no, quel figlio non sarà per te, ma per il padrone io lo dovrei fare. Perché me lo possa adoperare di fatica intristire, come in guerra mandare, solo per lui lo devo allattare, allevare dai vermi e dalla tosse guarire. Sì, piaci te, mi piace l'amore con te, ma incinta io voglio restare. Oh no, quel figlio non sarà per te, ma per il padrone io lo voglio fare. Di lotte, di rabbia lo voglio allattare, di rosso soltanto vestire, nel vino e bestemmie bagnare, con canzoni bastarde lo voglio ninnare, e armato poi contro il padrone lo voglio mandare, e armato poi contro il padrone lo voglio mandare. Nel 1873 lo Stato francese decise che sulla collina di Montmartre, che era stata al centro della resistenza dei comunardi insieme a Belleville, di costruire un'enorme basilica per espiare i crimini dei rivoluzionari, in particolare la fucilazione dell'arcivescovo. Per questo fu iniziata la costruzione della Basilica del Sacro Cuore. Nel 1880 si tenne, sfidando il divieto, il primo pellegrinaggio al cimitero del Père Lachaise, dove erano stati fucilati e sepolti una parte dei comunardi. 25.000 persone sfilarono con un fiore rosso all'occhiello. Da allora, ogni primo maggio, si è ripetuto il pellegrinaggio al muro dei fucilati. Lo stesso anno fu emanata un'amnistia e i deportati cominciarono a tornare. Per chi volesse approfondire ci sono diversi libri. Di Benoît Malon, La Comune di Parigi. Di Louise Michel, La Comune. Di Carlo Marx, La guerra civile in Francia. A cura di Loris Caruso, La Comune di Parigi, Marx e il presente. Di Lenin, La Comune di Parigi. Di Giuliana Pistoso, La Comune di Parigi. Si conclude qui anche questa seconda e ultima parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata alla Comune di Parigi.